mica guarda, mica guarda, mica guarda. Un conto con l'arte, se poteva dire, come si dice il canale nazionale di Giotto, come si va, c'è una volta che sono qui, due, tre, no, spazio, ma non ci devo mandare io, aspetta un minuto. E a Sacavegno, a Camavesta il Pegno, un secondo caso in Giotto. E mando pure un baracchino, vale la pena. E tu con la vacca, con la vacca. Ma come tu trovi seconda mano? E mettici la nuova allora la batteria. La seca vegno, che me, me mangi il roba. Guarda lui te, come tragico. Allora, siete andati là? Quando era, ieri o l'altro ieri? Già ho perso la cognizione del tempo. No, ieri. Eia. Vabbè, stavo bene a quell'ora. Di lusso. E oggi com'è il tempo, secondo te? È caldo come ieri o un po' meno? Sì, caldo c'è. Io c'avevo un difetto al faro della macchina, di destra, quello... come si chiama? Quello di dietro, che prendevano le lampadine tipo albero di Natale. La Fiat lo fa. La Fiat lo fa. Lo fa. Io sono tanto per cambiare le mutande, perché se mi vesto più caldo, quindi vivessi da solo mi leverei anche quelle, così se suonano vado ad aprire nudo. Ascoltate, è una cosa originale. Ehi, ciao Antone, l'altro giorno mi sono addormentato, mi sono assopito con lo smartphone in mano. Allegria, buonasera, ben sentito. Mi sono rientrato poco fa, ho acceso, ho messo su 10 in squelcio, poi sentite a te, allora esci a salutare a Marco e compagnia bella. Comunque buonasera alla ruota, alla cura da questa parte. Cattei. Oh iaia. Marco, a te l'immagine. Sono andato da Marcesu, cioè, da Pavone, voglio dire, sono andato a Pavone, mi ho preso il faro, siccome si è bruciata la piastra, mi ho messo il faro preso da Pavone e funzionava bene, l'ho piazzato e mi è rimasto il vetro e la piastra vecchia, quella bruciata, che posso sempre farla modificare dall'elettrauto, ma adesso funziona e lascio tutto così. Eia, eia, sì, infatti, tanto vale, la sala è buona, se è buona adesso. E tu Antone, al mare stai andando? State andando, dico, in famiglia al mare ogni tanto? Ma guarda, sinceramente parlando, sono due anni che io personalmente non vado al mare, mia figlia sta organizzando, sai, tra un impegno e l'altro, per il momento ancora niente, la verità, due annetti buoni che non si va al mare. Aspetta un attimo che controllo una cosa qua, ah, ecco perché, aspetta, ok. Sono due anni Marco che non vado al mare. Comunque la modulazione va bene, sì, tutto a posto. Sì, tutto bello come sempre Antone. Eia, Natalino, a te quanto ti arriva Antonello? Non ho guardato Marco. Marco lì, buonasera Natalino, ben sentito. Marco, 3 watt modulati, sto utilizzando il Sears 23 canali quartato. 3 watt, c'è 3,2, una cosa del genere. 3,2 watt modulati. A me ne arrivi Santiago 9, e sto usando 3 watt anche io. Eia, ciao OG, ben entrato, ti sento un po' nella propagazione. Eia, qui è 9.10 Antone, però io sono qui in alto, Sei entrato Eugenio, avanti Eugenio. Ehi, c'è propagazione, uno poco fa dal sud mi arrivava 9+5, 9+10, ogni a segnali, e parlavano una lingua tutta strana, sembrava calabrese o giù di lì. Eia, poi tu sei più esposto sul mare, quindi non ne parliamo. Eia, Antone, ma tua figlia non desidera andare al mare, cioè le piace il mare a lei oppure no? Ah sì, già le piace il mare, è che adesso giustamente, sai, 15 anni, dunque non è che mi piaccia tanto uscire col padre, cioè con la madre, con i genitori in sé, perché ci può andare con le amiche, è tutta un'altra cosa, ma è nella normalità. Oggi è andata con una vicina di casa, da 35 anni, dunque un pochettino più di sicurezza c'è, e via. Sì, oggi è andato, dovrà ritornare penso verso le 7.30, poi quando avrò qualche giornata libera volentieri, almeno una domenica mattina, almeno a mezza mattinata, ci vorrei andare volentieri, e anche se fa una brutta figura, sono bianchissimo, comunque ci andremo quest'anno, dai, una o due volte al mare ci devo andare perché fa piacere. E fortunatamente oggi è uscita una giornata di lavoro e sono rientrato un quarto d'ora fa. Come sono entrato subito ho acceso gli apparati, come sempre, anche ieri notte, però che ho fatto chiamata, ma sinceramente non c'era nessuno sul 10, li ho trovati in PMR ieri sera, e poi ho fatto diversi collegamenti con Genova, ieri c'è una bella propagazione, sempre con questo apparato, con 3 watt, Genova 8, Santiago 8, Radio 5, Santiago 9, là, riuscivano tranquillamente ad ascoltare, ma anche con la Spagna, sempre con 3 watt, tutto lì, mi ho fatto un piccolo DX alla fine, dai, è andata bene. Eia. Sì, c'è una bella propagazione, poi in banda laterale sui canali alti non ne parliamo. Lì con, poi sei in linea retto, tu ce l'avevi Antonio, non mi ricordo. C'è la verità, cioè non mi manca niente, la stazione è sempre operativa. Adesso quando fa un pochettino più di fresco cambio il tubo dell'antenna, perché il vento dello scorso inverno l'ha un po' piegato il tubo, dunque io lo metto un po' più resistente, devo fare un lavoro un pochettino più minuzioso perché il tempo non è imprevedibile, dunque il vento è abbastanza difficoltoso per le antenne voluminose, dunque mi sono procurato un tubo abbastanza resistente, appena lo sistemo l'antenna, tutto il resto della stazione è sempre completa. No, l'ideale ce l'ho, ma non sono un bel po' di tempo che lo utilizzo, la verità. È abbastanza soddisfacente quando sai, quando fai DX con i watt dell'apparato, ecco, alla fine, comunque, grazie anche alla propagazione già ti aiuta, tutto lì. Sì, poi me ne sono accorto, anche in 27555, in quelle zone lì, è abbastanza piena, anche ieri notte ce n'era, sino a tarda notte, anche l'ho fatto qualche piccolo collegamento, una piccola chiamata, così vedo che già funziona tutta la grande, dai, alla fine. Eia. No, anch'io sono bianco, siamo andati sì e no 3 volte al mare, se per eccesso 3 volte, perché ogni volta diciamo e oggi no, oggi no, oggi non me la sento, oggi non ho voglia, e poi passata l'estate, siamo a fine giugno quasi, vabbè al 20 giugno, caspita, poi luglio, agosto e finisce e poi cominciano ad arrivare le piogge, bisogna affrettarsi. E tu Natali, nulla, no? Ma sei sicuro che sia ieri Natali? Non era l'altro ieri che siete andati a pigliarvi qualcosa? Ieri era deserto, o sbaglio? Ieri notte siamo andati a pescare. No, io non dicevo pescare. Dicevo a pigliarvi il gelato, eravate andati l'altro ieri. Ieri la 27 era deserta, deserta, non sta più entrando nessuno. Ehi, vabbè, quando è deserta ce la teniamo deserta, cosa vuoi che ti dica? Tanto non posso costringere la gente a entrare, no? Eia, eia. Claudio non lo stesso non entra più, ho detto ma come mai? Gli ho mandato un messaggio, tutto bene? E lui mi ha detto sì sì, ma si sta dedicando ad altro, dai. Poi sai, c'è caldo, insomma, stare in radio non tutti ne hanno voglia. Qua nel salone c'è il ventilatore a piantana lì, quello a soffitto, l'ho messo a manetta e arriva una bella, muove l'aria, dai, sente un po' di frescura. Alla fine quell'affare non l'ho preso, quel coso di aria, come si chiama, rinfrescatore d'aria, non l'ho preso perché mamma non ci è voluta stare a pagarlo in due, da solo non mi accollavo le spese, io ho lasciato perdere, almeno per adesso, poi si vedrà. E cosa volevo dire? E beh, avete pescato ieri? Ma da solo sto parlando, ci sei Antonetti? Marco, che stavo dando una mano a mia moglie, ma... Via, no, ma dico, avete pescato, vi siete divertiti, racconta, no? Bobo! Bobo, sì, io parlo, non mi risponde nessuno. Antonello? Antonello, Dio, se ci sei ancora. Marco, ma non mi senti? Ho fatto un passaggio, non mi hai sentito? No, io ho sentito Natalino, forse avete parlato assieme. Chi ha fatto Bobo? Giulio? No, ciao. Ciao Marco. Ciao Antonio. Ciao Natalino. Ciao Eugenio. Sì, sono sente perché è qua verme. Ma già mi sento, dai. Favola, statemi bene, cosa fare? Io prima parla, stavo domandando anche gli auguri, ma non mi ha risposto. Lazzarone. Ciao a me, ci sentiamo tutti, va. Ciao a tutti, cosa fa? Sentite, quando me l'hai mandato, scusami, gli auguri, io, vabbè che guarda la verità, quanto sarà stato, 2 mesi fa, una cosa del genere, si è bruciata la scheda del telefono, l'ho ricomprata nuova, però tenendomi sempre il vecchio numero, quasi che sia capitato quel giorno lì, dunque ho la scheda nuova, micro SIM, cosa diavolo si chiama, però tenendo il numero di telefono vecchio. Ora sì che sia capitato quel periodo lì, poi bisogna vedere, o se me lo mandi su WhatsApp, ogni tanto i messaggi mi vengono dopo 2 giorni, i messaggi normali mi funzionano bene, sicuramente avrò problema con qualche col telefono, ma che periodo me l'hai mandato il messaggio? scusami giù, ma diamo colpo alla tecnologia, non costa niente ricambiare, poi giustamente li ho sempre fatti anche ogni anno, un po' a tutti alla fine, in base al numero di telefono che ho. Molti li ho persi e alcuni sono riusciti anche a recuperarli, va bene. Scusami, dai, ci sentiamo alle prossime, d'accordo, buon proseguimento Giulio. Avanti Marco per i saluti. Eia. Ciao Giulio, buon settore da fare, dai, buona serata. E sentiamo in un'altra occasione, anche dopo, io vediamo, finché non voglia rimango in radio, dai. Non mi parlare di SIM, Antonello, perché conoscevo le SIM, conoscevo le micro SIM, adesso hanno fatto le nano SIM, cioè alla fine se tu c'hai una SIM e cambi telefono, è capace che la SIM non va bene, capito? A meno che non esistano degli adattatori per adattare la nano SIM o la micro SIM alle normali, insomma ci esisteranno degli adattatori, no? E se no macello. Scusate, Marco, ho parlato con Marco, che mi diceva io che ho parlato con Claudio, solo che poi lui doveva fare dei lavori a casa, ha dovuto staccarsi dalla radio, per cui io ho aspettato un po', ma non si è passato nessuno, ma ci sentiamo al prossimo, vai! Ehi, Giulio, sei un po' troppo, vabbè, amplificato, sta un po' buona sena sta diventando. Ah, avete parlato con Claudio, allora non c'ero io, forse ero uscito, non mi ricordo ieri cosa ho fatto. Il baracchino grosso modo era acceso, ma può darsi che dall'altra stanza non l'abbia assolutamente sentito. Ok, ho capito. Capito Antonio, questa storia delle SIM, nano SIM, micro SIM. Non so se esistano adattatori, niente ne sai. Sì, gli adattatori ci sono, ne vendono sia i cinesi che costano 1 euro, sia anche gli altri negozi dove compri meno male, Wind, Team o 3. No, ma il discorso qual è da parte mia? Che è la seconda volta in giro di un po' di anni che si bruciano. Proprio, no, non funziona più, non c'è più rete, non c'è più niente, poi il problema qual è? Che tutti i numeri che tu hai, i numeri della SIM, si brucia lì, si brucia tutto. Dunque conviene fare sempre, avere i dubbi, sia nel telefono che nella SIM, dunque è anche un problema quando vai in rubrica li trovi tutti doppi, no? Dunque invece di averne 60 ne hai 120 perché sono raddoppiati. Però hai il telefono, non lo so, è la seconda volta che mi brucia la SIM, ma speriamo in bene. E l'ho dovuta cambiare 10 euro, l'ho speso, sì, 10 euro, sempre Wind, però sempre tenendo il vecchio numero, perché alla fine conviene. Quando sei anni con lo stesso numero, quello dai da una parte o dall'altra, dunque, se qualcuno ti deve chiamare, almeno sei referibile, sia per una cosa che per l'altra, anche per il lavoro, è sempre meglio tenere i vecchi numeri, ecco, tutto lì. E ho dovuto ricomprare nuova e a ricercare diversi numeri perché la maggior parte li ho persi purtroppo, ma è andata così. Sicuramente anche per Giulia è andata la stessa cosa. Tutto lì, adesso già è sempre in funzione, ecco. No, comunque ieri, ripeto, ho acceso, facevo diverse carrellate, 5, 10, 20, non c'era nessuno. Ho trovato, c'era Pomponio, Gio Maria e poi anche Graziano in PMR ieri e basta, poi solamente propagazione, tutto lì, ieri è andata così. Piano piano. Caspita, c'è questa propagazione sotto, lo sai che ricetto sotto di te, Antonè, te ne immagini, credo che sia sull'Italia, o giù di lì, ma tutti sul 10 vengono, ci sono 40 canali, caspita. Quindi Natalino, non mi ha detto se avete pescato, se vi siete divertiti. Problematici, divertiti sì, pescato no, a chi vivano in troppe alghe, vabbè se non vedevano l'esca, a me ha toccato due volte, però l'ho perso. Ah, alghe c'erano ieri, quando c'è un'alghe è un casino, perché vai a recuperare e ti si attacca un maloppo di alghe, sono una rottura di palle quelle, bisogna, a culo. Umidità ce n'era o si stava bene gira? No, si stava benissimo, non bene. Era di lusso. Eravamo in maglietta maniche corte tutte e due. Ah, caspita. Ma voi state a canna in mano, vero? Anche Gianni pare sta... Cioè aspetta il tocco, io invece certe volte metto la canna, la porta a canna e mi siedo. Se a bocca bene, se non a bocca meglio. Non sto al tocco, invece bisognerebbe stare e aspettare il tocco, appena dà il tocco, dare lo strappo, no? Così l'amo lo becca. Solo che a stare tutta la sera o tutta la notte con la canna in mano, la seccatura mi. No, eravamo in spiaggia con i poggiacanne e tutto, ma la stai scherzando, cosa con la canna in mano? Manco al bordo, cazzo, che pongo il gucciarino io, quando intendo il gucciarino un recupereggio. Ah, no, perché c'è qualcuno che sta sempre al tocco mi. Cioè appena sente il tocco, lo strappo, allora tac, recupera, dà il colpettino e recupera. Eia. Poi lì è bello portarsi qualcosa da bere, no? Anche da mangiucchiare, da sgranocchiare per far passare il tempo. Ehi, ci avevamo quei cracker. E che esca avete usato? Americani? Ehi. Eia. Ma tu avevi le canne tue o Gianni ne aveva più di una? Tre canne avevamo, erano di Gianni, perché io ho l'attrezzatura in campagna, devo salire a prendere. E le mie non si muovono da secoli, sicuramente hanno la lenza secca da cambiare. È che mamma mia è una palla stare a canna, boh. Ah, poi devo guardare al Ministero delle Politiche Agricole se hanno sbloccato i tesserini, perché io ho un bel fuciletto sub medio da sfruttare e vorrei essere più che mai in regola, anche se hanno detto che c'è la proroga, però la stanno tirando troppo per le bocche. E tu Antonè, roba da pesca ne hai? Propagazione. No, la verità no, ci sono andato una volta, anzi una o due volte in vita mia, è molto rilassante e giustamente ci vuole passione, no, due volte in vita mia Marco, la verità. La canna? Mi ricordo che una volta eravamo andati in tipo 4, no? io e questo ex amico, sottolineiamo ex, abbiamo piantato la canna lì, anziché pescare ci siamo bevuti questo liquore alla mela, bello forte, e ci siamo leggermente incicciati, ma poco, io non è che beva molto, e ci siamo sdraiati lì sulle rocce, eravamo sul bordo delle rocce e giù c'era lo strapiombo sul mare. Dice, basta, caspita, bastava, che ne so, e ci siamo messi addormentati, bastava un sussulto, magari ti spaventavi, facevi un brutto sogno e cadevi in acqua. Due pazzi, guarda, di notte era pure, che se cadevamo in acqua c'era anche l'acqua mossa, non ci pigliavano più, Vabbè, ma sai, quando sei in compagnia poi, vedrai che l'acqua già te la sveglia la sberla, che ti è tirato, vai tranquillo. Ma è brutto che lì è strapiombo, cioè se cadi l'acqua non c'è più appiglio per risalire, è un problema, c'era anche il mare un po' mosso, in più, sai, con i vestiti tendi a andare più a fondo, abbiamo fatto una bella fine, morti da fessi. Allora, io in questo periodo, no, Antonello, sto apprezzando lo Jägermeister, non l'avevo mai gustato, l'abbiamo preso, lo mettiamo in frigo, ogni tanto dopo pranzo, dopo cena, un cicchettino, ma proprio poco, anche perché è forte, a 35 gradi. Lo Jägermeister, diciamo, è un amaro abbastanza amaro, è la verità, però adesso con la scusa di Inter, ho fatto una piccola ricerca e ho trovato diverse ricette per fare i liquori. Siccome quest'anno, poi giustamente quando vado a camminare, bene o male, vedo un po' come la natura, no? Ci sono, quest'anno usciranno tantissime more, quelle selvatiche, e da lì si può fare tranquillamente il liquore di mora. Dunque, tra un mesetto e mezzo, le more saranno belle mature, grandi, poi conosco anche una zona dove macchine non ce ne passano, c'è una bellissima pianta lì. Ne faccio un bel chiletto, poi mi compro alcol etilico, quello da un litro, ne escono due, e quest'anno provo a fare il liquore alle more, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Poi se esce buono te lo porto un po' e lo assaggi, fatto in casa, giustamente. Però in questa ricetta non ci vuole lo zucchero grezzo, sai, quello tipico zucchero bianco, no, bisogna utilizzare zucchero di canna biologico al 100%, dunque dovrebbe essere sano al 90%, dai, alla fine. Cerco di seguire bene la ricetta e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Dunque, tra macerazione e preparazione devono passare due mesi, il liquore è pronto. Appena escono le more proviamo a sperimentare. Caspita, se è buono quanto sono buone le more, deve essere uno spettacolo, Le more sono buonissime, io mi ricordo quando avevo la possibilità, quando andavamo a Florinas, ogni mangiata di more, mamma mia. E Auchan le vendono a caro prezzo, c'è una piccola mangiatina di more, non mi ricordo se sia 2 euro, 2 o 3 euro, 2,50, ma cosa del genere. No, mi stavo leggendo comunque molte recensioni di amari, il vero amaro per eccellenza è il Fernet Branca, ma sai perché è amaro? È fiele, quello è amarissimo, è fatto proprio da erbe medicinali, io mi ricordo quando ho fatto lo sbaglio di assaggiarlo, si andava come una medicina cattiva e amarissima, sapeva proprio di ospedale ed era fiele, mai più lo berrò. Invece vedi, lo Jägermeister non è amaro, è buono, il Montenegro molto buono, anche dolce, e il vecchio amaro del capo lo stesso è bello dolce ed è anche sono considerati amari ma dolci, no? È fatto con le arance anche, no? Quindi ha un bel sapore. Il Braulio non so come sia, è fatto da erbe di montagna, quindi presumo sia più amaro. Ce ne sono tanti, l'amaro lucano anche. Mi stavo così un po' documentando. Il prossimo che voglio provare è l'amaro del capo, il vecchio amaro del capo, quello fatto in Calabria, no? Sai, arance rosse, quelle cose lì. Ci sei, Marco? Sì, ma non c'è Natalino? Hai lasciato un attimo di bianco per Natalino, non c'è? Ma Natalino, se non parli, non gli fai domande, se non lo interroghi non parla. fermata lì, non è che ti devo fare le domande, come siete stati, parla, esponi, racconta, favella. Ma cosa vi parlo sopra? Se stavate parlando voi non potevo parlare io. Abbi pazienza, Marco. Parla di amari, che amaro ti piace? Lo Jägermeister e l'amaro Montenegro. Sì, guarda, il Montenegro me l'ha fatto provare Claudio in pizzeria. Ce l'ha preso lui, l'ho preso anch'io. È veramente, ma veramente buono il Montenegro. Forse più dello Jägermeister, dipende dai gusti. È abbastanza dolce. Perché a me gli amari amari come il Fernet Branca non mi piacciono, è proprio uno schifo. Anche l'Unicum è fortissimo, hanno detto è fortissimo, è proprio prepotente come amaro. Mamma mia, anche troppo. Sì, mi attira molto questo vecchio amaro del capo. Poi mia zia invece prende dalla piazzetta un amaro del cacchio, no? Mi è chiamato amaro del golfo, però la particolarità buona di questo amaro è che sa di uva, sono gusti proprio un netto sapore di uva, molto buono, pur non essendo di marca, perché di marca c'è, che ne so, Amaro Averna, Ramazzotti, mai provati, noi siamo per gli amari da discount, quelli che costano 3 euro, 3,99 e costano poco, invece gli amari di lusso, cioè non di lusso, gli amari di marca costano tutti intorno ai 12 euro, 10, 12, 13, e ripresi tu Antone, che parlare con Natalina è come parlare con Muro. Sto leggendo cosa qua che mi interessa, ed è quello che non uno spettacolo veramente veramente buono. E ho guardato anche la ricetta su internet, che bene o male quel procedimento è sempre lo stesso come quello delle more, solo che invece per il finocchio bisogna aspettare a fine estate, quando il finocchio inizia già a fare i semi, allora è il momento giusto per raccoglierlo, e anche lì lo stesso, da un litro se ne fanno 2 litri, dunque quest'anno, se tutto va bene, mi faccio sia il liquore di more che di finocchio. E poi lo scorso mese, in questi giorni che poi mi sto dilettando a casa, mi sono fatto il sapone in casa. Il primo sapone l'ho fatto con l'olio di alloro, con l'infuso d'alloro, e ho fatto, mi sono usciti 16 saponette da 1 litro d'olio d'oliva, ci vuole sempre l'olio d'oliva come base. E poi l'ultimo sapone che stanno maturando, ci vogliono 6 mesi per utilizzarlo, per seccarsi bene, l'altro l'ho fatto con la lavanda. Ma mi piacciono fare molto queste cose, anche i 16 saponette mi sono uscite, uno l'olio d'alloro e uno con i fiori di lavanda. Ah, bello, ti diletti anche in quello. Insomma, sei, come dire, come si dice, ecologico. Ecologico. Guarda, all'alloro deve essere uno spettacolo, perché somiglia al sapone di Aleppo. Sapone di Aleppo mi pare olio d'oliva e alloro, ma è buono proprio, ha un profumo, ti sembra di essere nella natura con quel sapone lì. Diciamo, poi c'è quello di Marsiglia vero, non quelle cagate che vengono da noi, il vero Marsiglia è tipo marche tipo Ferre Cheval, adesso non mi ricordo le altre marche, no, proprio fatto con olio di oliva, 72% di olio d'oliva, quello è il vero Marsiglia, ed è buono perché ti puoi lavare le mani, ci puoi lavare il bucato, ci puoi fare la doccia, usarlo come sapone da doccia, perché è fatto proprio con materiali, non roba chimica, è tutto materiali naturali. Allora, uno era Fer Cheval, l'altro era Savonerie, mannaggia, non mi viene il nome, comunque proprio Savonerie di Marsiglia, che lo fanno come lo facevano una volta, nel calderone, come si faceva 100 anni fa, non quelle schifezze che vedi, il sole, il sapone di Marsiglia del sole, che è bianco, che è per bucato, non c'entra nulla quello, è tutta roba chimica quella. Esatto, roba chimica, e poi ci sono anche dei prodotti schiumugini, come vengono chiamati schiumugini, poi ci sono grassi animali. Allora, il sapone che io ho fatto ha lo stesso procedimento del sapone di Aleppo, In dubbio, in poche parole, un semplice sapone ha bisogno di uno, due, di tre ingredienti, semplici tre ingredienti, diciamo che due sono semplici, il terzo diciamo una via di mezzo. In poche parole, ci vuole olio d'oliva, un litro di olio d'oliva, giustamente sia trovarlo biologico o da qualcuno che lo fa senza medicina è meglio. Poi ci vuole 300 ml d'acqua demineralizzata, per farlo semplice, e poi ci vogliono 128 grammi di soda caustica, che attenzione, la soda caustica è stata sempre usata per fare saponi anche nell'antichità, ecco perché poi deve maturare da 6 mesi a un anno, in modo che poi la soda caustica evapori, e quello serve quella alla stagionatura. E così ho fatto, si è solidificato, ha un ottimo profumo, la verità, ed è veramente simpatico farlo, guarda. Se vedo che funziona te lo faccio provare, uno che ne ho fatto, vedi un po' se si è uscito bene. E poi giustamente poi ti puoi sbizzarrire tu, sempre l'olio d'oliva ci vuole, non so, hai delle bellissime rose in giardino, profumatissime, ecco, cosa fai? L'acqua di rose, fai acqua e infuso di petali, le fai macerare per 12 ore e poi le aggiungi allo stesso procedimento, olio d'oliva, acqua, infuso di rose e soda caustica, e ti fai il sapone alle rose, per dire, fatto da te in casa. Ci sono tantissime ricette, dico che è veramente divertente. Ripeto, sopra adesso ne ho fatto due qualità, una all'oro e una alla lavanda. Vediamo un po' tra 6 mesi che mi spetta provarlo nel periodo di dicembre. Se funziona poi piano piano, sai, se mi fai a ruota, ecco, alla fine, se va bene per la pelle, diciamo per il fisico, anche per il bucato a mano, ecco. Più naturale di così non ce n'è. E ci sono veramente tantissime ricette, guarda, se guardi su internet, guarda, ti sbizzarrisci, è la verità. È abbastanza divertente. Aspetta, sai cosa mi ha ricordato? Il film Fight Club. Non l'hai visto? Non hai mai visto Fight Club? Guarda, è il film Fight Club, non è un film, è il film. E in questo film c'era questo personaggio molto originale, Tyler Durden, che andava con l'amico a rubare il grasso delle liposuzioni dalle cliniche, andava a rubare il grasso delle liposuzioni per fare il sapone, poi lo rivendeva ai negozi di persone ricche, capito? Come diceva lui, li rivendeva alle persone ricche i loro culi ciccioni. Allegria, perché alla fin fine diciamo tutti i saponi industriali, quelli che trovi anche 4 saponette a 1 euro, la maggior parte sono con grasso animale, poi con tutte alleganti, profumi sintetici, sai, tutte queste belle cose, schiumogine per fare tanta schiuma, perché la gente se non vede schiuma non si lava. Alla fin fine ormai è diventato, ti dà un senso di pulizia la schiuma, ma non è così. Poi ripeto, la maggior parte sì, sono da prodotti di origine animale, invece quello che ho fatto io è prodotto di origine vegetale, ecco, alla fine. In regola, un ottimo sapone deve avere 3 ingredienti. Poi giustamente il profumo, se vai in erboristeria ti compri, non so, degli oli essenziali, biologici, di limone, di arancio, qua c'è di tutto, di mandarino, di rosmarino, di menta, tutto quello che vuoi. Però diciamo ogni prodotto c'è il suo prezzo, il più caro era la rosa, in poche parole 10 gocce, ho chiesto, guarda, 10 gocce contate di olio essenziale di rosa viene a costare 75 euro, ti puoi immaginare. Dunque ci sono tantissime qualità e prezzi, ma se uno si vuole sbizzarrire, sai, per esempio cosa c'è, per dire, l'olio di alloro viene 9,90 una piccola boccetta, sempre biologico e con biologico controllato al 100% di aziende italiane. Dunque meno male la profumazione la scegli tu e sai quello che stai mettendo. Ripeto, è abbastanza divertente. Ora, i saponi che gli ho fatto, gli ultimi tondi, poi gli ho dato la forma di saponetta, per dargli la forma ho utilizzato la scatola dei Pringles, che ce le presenta le patatine, tonda, ci metti l'impasto dentro, quando asciuga dopo 24 ore, tagli e c'è perfettamente il tubo tondo, poi col coltello dai a misura e c'è le saponette tonde. Eia, interessante, sì, ho visto anche, ho letto su internet di una lista di prodotti che sono appunto un po' da evitare nei saponi, soprattutto se vuoi roba naturale, roba chimica, grassi animali, quella roba lì. E allora ho trovato il sito che appunto vendeva il sapone di Marsiglia vero, ed è fatto tipo da questi tre o quattro ingredienti che dici tu, magari loro ci possono aggiungere un po' di lanolina, non lo so cosa aggiungano, però sono, guarda, li fanno da saponette da 300 grammi oppure fanno a cubo, li fanno cubi da 400, 500, 600 grammi, anche un chilo, proprio un cubo, ed è spartano come fatto, molto tagliato alla bene meglio, proprio tipico delle cose artigianali. Oppure lo vendono in stecche, stecche da un chilo, lo sai, proprio una barra di sapone da tagliare. Dicono anche come tagliarlo, li metto in microonde, se tu c'hai un cubo grosso, no, lo metti in microonde, lo scaldi un po', poi col coltello lo tagli e si ammorbidisce, è morbido e lo puoi tagliare e lo puoi dividere in più saponette. E poi il sapone di Aleppo, il vero sapone di Aleppo che vendono lì, è fatto proprio in Siria, ha i caratteri arabi sopra, ed è fatto proprio da tipo olio d'oliva all'oro, non so cos'altro, e vabbè, soda ovviamente. E diciamo è brutto da vedere il sapone di Aleppo, perché fuori poi c'è un coloraccio, sembra formaggio, no? E poi dentro è verde invece. E li volevo acquistare, solo che sempre per mancanza di soldi, cioè se dovessi acquistare tutto quello che mi piace diventerei povero. Aspetta Marco, allora, io il sapone di Aleppo l'utilizzo, guarda, voglio dire, cazzate almeno da, guarda, 4-5 anni il sapone di Aleppo, Sì, come forma abituati ai saponi colorati, sai, perfetti, non lo è così, perché è un sapone artigianale. Allora, prima veniva fatto in Siria, poi purtroppo c'è guerra, adesso viene fatto in Turchia, però sempre sapone di Aleppo, anche lì sempre tre ingredienti. Dunque, ti faccio un esempio, io mi lavo ogni giorno, o un giorno sì, un giorno no, comunque, non ne faccio passare la settimana, poi specialmente secondo che lavoro fai, per forza, ogni giorno ti devi lavare. Dunque io ti garantisco che lavandomi ogni giorno, io mi acquisto due saponette all'anno di sapone di Aleppo e spendo esattamente 11 euro, ogni saponetta mi fa 6 mesi lavandomi ogni giorno, perché non guardatela così, quella saponetta dura tantissimo, non ha profumo, non ha niente, ti lavi, pulito, punto. Ogni saponetta l'ho provata per anni, mi fa 6 mesi la saponetta, dunque io per lavarmi, per la mia igiene personale da testa a piedi, attenzione, mio personale, spendo 11 euro all'anno, dunque non credo che sia una grossissima spesa, attenzione, e la compro lì dalla farmacia Pinna, lì di fronte a Zara, dove c'era Lupi Vecchio, dunque già da lì per te è abbastanza vicino, mi costa di meno, viene 5,50 euro, sì, 5,50 euro, però attenzione, c'ha, quello che prendo io ha il 16% di olio di alloro, dunque più percentuale ha dell'olio di alloro essenziale, più aumenta di prezzo, dunque 16% va bene, per una pelle normale, poi normale, poi se è una pelle delicata, non so, dovrei avere il 26%, ecco, lì inizi a pagarlo 10 euro, dunque più c'è olio di alloro, più costa alla fine. Dunque per me, io personalmente, che 16% l'ho provato, va benissimo, spendo 11 euro all'anno per lavarmi ogni giorno, dunque c'è un bel risparmio. Ehi, ascolta, ma sui capelli com'è il sapone di Aleppo? Come te li fa? Morbidi o come? Allora, la verità, te li fa leggermente voluminosi, rimangono, sembrano elettrizzati il primo periodo, te li fa elettrizzati, poi alla fine quando utilizzi ogni giorno per dire ritornano normali, però il primo periodo te li fa elettrizzati, rimangono molto, molto voluminosi, ecco, alla fine. A voi alcuni giorni ti lascia leggermente pesanti, rimangono un po' schiacciati, poi se li rilavi di nuovo, sempre con sapore, ritornano normali. tutto lì, beh, conta che poi gli sciampi, c'erano gli ammorbidenti, sai, tutte queste cazzate varie. E naturalmente, ti stanno fanno naturalmente, Marco, tutto lì. Poi c'era una porta di gelatina e i capelli trovano normali. Eia, eia. Guarda, l'avrei voluto provare. Quello che hanno in questo negozio online fatto in Siria ancora, e prima che lo finiscano quasi lo volevo ordinare, perché lì c'è la guerra, cioè arriva il sapone con il proiettile dentro, è lo stesso quello di quello che ho detto io prima, sapone di Marsiglia, ecco, un bel cubo da 600 e ti fai tre saponette da 200, io di lì. Poi vabbè, ci sono le spese di spedizione, purtroppo, vabbè. E volevo proprio provarlo, dai. Caspita, ogni appento, comunque è divertente, dai. Se lo fai come vuoi tu, di profumo. Ah, io ovviamente avrei fatto un brevetto, avrei fatto il sapone aromatico al cannabis. Lo bisogna fumarlo, non lavarti, mi guarda, mi... Poi dopo scendo giù, che li ho messi a, giustamente a... per 6 mesi. Poi scendo giù, faccio le foto e ti faccio vedere come sono uscite le saponette. Alcune rimangono molto grezze, giustamente, ma si vede che poi è un prodotto fatto a casa, fatto a mano, ecco, alla fin fine. Guarda, per fare 16 saponette ho speso esattamente 4, 5, 6 euro. Ho speso 6 euro di componenti tra olio, soda caustica e acqua demineralizzata, 6 euro. E mi sono uscite 16 saponette, vedi tu. Caspita, 16 saponette, mi vogliono usate anche 16 saponette. Sì, con poco prezzo, con poco costo escono un bel prodotto viene. Interessante, mi. Ok, Natalino c'è ancora? No, niente da fare. Piuttosto, Antone, io mi siete, ho sentito voi perché stavo per mangiare. Ci sono le polpette al sugo, prima fritte e poi messe nella salsa. Mi stavo prestando a mangiare, quasi quasi ne approfitto. Se lo si fa tardi, insomma, voi. Poi a cenare non si cena. Ok, quindi mi assento per un po'. Vediamo se dopo riprendo, se trovo qualcuno, dai. Ok? Anche per Natalino mi vado a mangiare. Forse ci sentiamo dopo, ok? Ehi, capa Marco, dai, aspetta un attimino, faccio un attimo di bianco, vedete c'è Natalino. Perché io sinceramente non lo sento, aspetta. No, niente Natalino, dai. Allora Marco, appetito. Poi non c'è problema, io dopo cena guarda, lo sto sempre accendendo l'apparato, la verità è sempre accesso, poi se sento qualcuno mi faccio sempre sulla da carrellata, dove troppo mi fermo, è la verità, comunque se ne voglio non c'è nessun problema, poi anzi fammi vedere che ora è che poi riesci a vedere alle 7, sì sono le 6:30, alle 7 devo ora fare una piccola passeggiatina che ci vuole ogni tanto, e prima di andare a passeggiare ti faccio la foto. Così te le spedisco su WhatsApp e vedi un po' le saponette come le ho fatte, dai, e poi mi darai un tuo giudizio. Va bene allora, dai, appetito, se ci sei a più tardi.